L'articolo parte chiaramente da una disamina punto per punto del pacchetto presentato il 19 novembre dalla Commissione europea al Parlamento, che ricordiamo è ancora in fase di attesa di una conversione eventuale da parte del Parlamento. Quello che la Commissione europea ha presentato è una prosecuzione della deregolamentazione delle tutele digitali. C'è un rapporto molto dettagliato che ci ha aiutato, come altre economie, a scandagliare le proposte punto per punto, che è quello di Corporate Europe Observatory e Lobby Control. Sono due organizzazioni no profit che monitorano sia l'influenza delle grandi multinazionali tecnologiche sui processi decisionali dell'Unione Europea, TUCUR, e i quali appunto queste due ONG, le quali hanno esaminato questo testo unico, e loro ci hanno appunto rivelato, insieme ad approfondimenti fatti insieme alla redazione, quella che è la vasta deregolamentazione che procede a danno ovviamente dei cittadini. La trasparenza algoritmica, per esempio, la riservatezza dei dati, oltre che la privacy, ma anche per esempio il ricorso massiccio all'intelligenza artificiale, è nei propositi della Commissione uno dei punti più importanti. Ricordiamo che nella composizione del Parlamento europeo abbiamo degli interlocutori in questo momento che, a partire dal 2019, sono maggiormente legati, o meglio maggiormente rappresentati, dai partiti di estrema destra. È una cosa sulla quale non è secondario evidenziare o focalizzare l'attenzione, perché il partito di ECR, che sono i conservatori e riformisti europei, la compagine di riferimento di uno dei partiti italiani quali è Fratelli d'Italia, oggi al governo con la presidente Meloni, e anche ID, che è Identità e Democrazia, il partito, la compagine di riferimento per la Lega, per intenderci, in Italia, sono due partiti, due compagini appunto del Parlamento, che sono cresciute esponenzialmente e che ad oggi si ritrovano insieme al Partito Popolare Europeo a contenere, a gestire una vasta possibilità decisionale in ambito legislativo e non solo. Quindi è chiaro che questa composizione di un'estrema destra crescente, soprattutto dalle ultime elezioni europee del 2024, ha fornito alle multinazionali degli interlocutori, i quali a loro volta portano al Parlamento, attraverso la Commissione europea, quelle che sono le proposte di deregolamentazione direttamente delle personalità, delle multinazionali che hanno degli interessi a deregolamentare le procedure digitali a danno dei consumatori e dei cittadini del continente. Si parla di misure come il possibile utilizzo di dati personali e sensibili per addestrare l'intelligenza artificiale, si parla anche di strumenti di sorveglianza che potrebbero essere implementati e si parla di questi dati pseudonimizzati. Ti chiedo di spiegarci questo passaggio, che forse è il più ostico. Rispetto al ricorso all'intelligenza artificiale, il ricorso all'intelligenza artificiale è fondamentale perché la nuova frontiera, lo sappiamo noi da piccoli cittadini profani, dell'ambito tecnologico, perché va ad implementarsi in tutte le funzioni della vita quotidiana, da quella politica a quella meramente appunto fattuale. L'intelligenza artificiale non è, come viene percepita, un ambito neutro, viene sin dalla sua, la chiamano appunto, la sua istruzione, la formazione è già non neutra, ma ha delle caratteristiche fortemente sessiste, occidentocentriche, quindi con prospettive di istruzione delle stesse risposte dell'intelligenza artificiale che sono pilotate, che sono comunque legate particolarmente ad un'area del mondo, ad una zona, ad una cultura e anche a strumenti di competizione legati alla nostra sfera culturale. Per quanto invece mi dicevi tu sui dati pseudonimizzati, una parola un po' ostica, questo cambiamento praticamente trasforma una regola universale, cioè il fatto che precedentemente per vendere i dati ad altre aziende o a data broker si doveva fare riferimento all'eventualità plausibile che questi dati potessero essere riconducibili a delle persone, appunto a delle identità precise. Ad oggi questa regola appunto universale, che proteggeva quindi le identità, viene scansata, elusa, grazie al fatto che diventa parzialmente soggettiva. In che modo? Le tutele del digital omnibus, quindi quelle che non sono più tutele, fa sì che un'azienda che compri dei dati non abbiano questi dati appunto una persona, un'identità precisa riconducibile, possono usarli senza dover sottoporli a un controllo incrociato, possiamo dire, con quelli che sono i dati pseudonimizzati, cioè il fatto che ci siano degli enti terzi, quindi dei database, che possono tranquillamente riconoscere le identità e rivenderle al all'azienda madre con delle identità specifiche e precise. Più in generale, diciamo, sul Digital Omnibus, la Commissione Europea dice che l'obiettivo è quello di snellire la burocrazia per rilanciare l'innovazione, ma in realtà si sta facendo un gran favore alle big tech. Assolutamente sì, è il punto di partenza, cioè la nostra, diciamo, il nostro controllo e sorveglianza democratico devono sempre focalizzarsi su quello che costituisce poi il baluardo di difesa e protezione della riservatezza della vita dei cittadini. Dobbiamo renderci conto che praticamente la separazione tra online e offline è una distinzione ormai irreale nel mondo in cui viviamo, un abbaglio che invece nasconde il continuum di un antico problema, che è quello della prevaricazione, della violenza, del controllo, che era espressa prima attraverso le infrastrutture che conoscevamo della politica, diciamo, reale, quella offline, ma che ad oggi attraverso il linguaggio tecnologico e diverse infrastrutture sposta il focus altrove. Ecco perché è importante vigilare sul pacchetto Digital Omnibus, che può magari sembrare ostile a chi non si intende o ha paura di non intendersi molto di tecnologia, ma non parliamo tanto di cavilli tecnologici, parliamo proprio di rappresentanza, di tutele legali, di democrazia e di esercizio della democrazia stessa. Il controllo elettorale, per esempio, sposta il suo fuoco su un terreno in cui la sorveglianza è molto più capillare. Quella digitale è assolutamente diffusa, implementata, assimilabile dai dati più banali della nostra navigazione su internet, quindi la priorità assoluta per le compagini politiche e per i partiti politici è impossessarsi della nostra vita online, della nostra vita digitale, che contiene un enorme bagaglio di informazione, non soltanto per informarsi di quelle che sono le nostre esigenze, al contrario, per plasmarle, forzarle, ricondurle ad obiettivi che sono quelle di vincere una partita, diciamo, elettorale, o al contrario quelle di istruirsi rispetto a dinamiche, visioni culturali che sono già formulate o precostituite dalle compagini stesse.